24 mattino. Eccoci qua, le 8:18 minuti, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi di ottimo umore. Allora, prima di iniziare sì, il tema, di pessima salute, ma di ottimo umore. Sì, dobbiamo informare gli ascoltatori che dopo aver insultato, è una parola grossa. Dopo aver insultato metà dei presunti ladri d'Italia, di aeroporti e di alberghi che non voglio nominare, visto. Beh, ti prego. Il famoso registratore di cui tutti chiedono era nella borsa. Allora, in realtà quindi ieri stendiamo... non avevamo detto l'oggetto del furto e pertanto comunque un oggetto che si usa in radio. Era nella borsa. Stendiamo un velo pietoso. È una cosa piuttosto grande che si vede benissimo. E parliamo di assicurazioni. Sì, assicurazioni che si possono vendere nei supermercati, lo sai? Non lo sapevi? Non lo sapevo. Allora, dopo la benzina, i servizi di telefonia e i medicinali, nei carrelli dei supermercati troveranno posto anche le assicurazioni per la casa e la famiglia, perché a partire da luglio nelle catene di Meglio e Sidis, che fanno parte del gruppo Interdis, sarà possibile acquistare polizze contro incendi, furto e scippo o a copertura di inconvenienti di cui deve rispondere se capitano il capofamiglia, il cane, piuttosto che il bambino che gioca a pallone sotto casa e rompe i vetri di un vicino. Insomma, circostanze di questo tipo, quindi le polizze a copertura di queste situazioni. Buongiorno a Giorgio Sant'Ambrogio, direttore generale marketing di Interdis. Buongiorno a te, Deborah, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, com'è nata questa nuova proposta e come si svilupperà? So che a fare da apripista all'iniziativa saranno 4 città, e poi come vi muoverete, Sant'Ambrogio? Guarda, è semplicemente nata in una sessione del Consiglio di Amministrazione. Io ho la fortuna di avere un Consiglio di Amministrazione illuminato e mi ha detto: Giorgio, questa evoluzione dei punti vendita di cui si dice tanto, in cui non è soltanto un luogo dove vendiamo dei prodotti e altresì ci sono dei consumatori, che poi che brutto il termine consumatore. Però così siamo, il termine consumatore. In questa fase di crisi siamo drammaticamente visti come dei consumatori che consumano molto meno del passato. Però appunto, a parte ma anche il termine, noi siamo dei clienti, siamo degli individui, non siamo solo dei consumatori. E se io ho degli individui, dei clienti che entrano nelle mie unità di vendita, devo incominciare a pensare a dei prodotti, a dei servizi per accontentare questi clienti, questi individui a 360 gradi, non soltanto col prodotto fisico che mettiamo sullo scaffale, ma anche con un qualche cosa di innovativo. Per cui all'interno di questo brainstorming in consiglio di amministrazione abbiamo detto: quale potrebbe essere un prodotto o servizio intelligente, interessante, estremamente utile per i nostri clienti individui che possiamo mettere fra virgolette sugli scaffali? E allora abbiamo detto: ce ne sono diversi, da quest'anno partiamo con un prodotto servizio che si chiama assicurazione. Ecco perché ci siamo rivolti ai migliori, quelli che noi abbiamo considerato i migliori in una fase di scouting sul mercato, e abbiamo detto: benissimo, incominciamo a studiare questo progetto affascinante e appena siamo pronti andremo sugli scaffali con un qualche cosa di nuovo, private label anche, cioè che sia brandizzato dalle nostre insegne Sidis e di Meglio. Però per fare le cose intelligenti abbiamo detto: proviamo a partire con... Ecco, spieghiamo ai nostri ascoltatori, non è che siete voi che confezionate in casa Interdis una polizza assicurativa che addestrate i vostri venditori a fare anche gli assicuratori, ma vi siete accordati con una grande compagnia. Assolutamente sì, noi ci siamo accordati con il gruppo Reale Mutua, di cui la Piemontese Assicurazione garantisce la bontà, la competenza e tutto quello che è legato al discorso assicurazioni, e siamo partiti con un progetto pilota su 4 realtà italiane, nella fattispecie a Brescia, a Latina, a Bari, Corato e Ragusa. Questo perché? Perché vogliamo testare questo prodotto servizio sia nei supermercati da 1.500, 2.000, 2.500 metri quadri, ma noi vogliamo vincere una sfida molto affascinante, che è quella di riuscire a proporre questo servizio anche in unità di vendita di 500, 600, 700 metri quadri, cioè in unità di vendita dove i nostri clienti individui entrano 2-3 volte alla settimana. Ecco, e l'abbiamo voluto fare sulle nostre insegne nazionali, quindi Sidis e di Meglio. Per fare questo però, come dicevi tu giustamente poc'anzi, chiaramente dovevamo anche formare, anche per ottemperare tutti i dettami in questo settore, formare dei nostri dipendenti che sono capi reparti, che sono direttori e vice direttori, a vendere l'assicurazione, a essere competenti in queste assicurazioni e a venderle nei nostri punti vendita. Quindi non sarà la compagnia di assicurazione che vi metterà a disposizione degli esperti, ma comunque siete voi che addestrate allora delle professionalità interne, perché questo è un aspetto piuttosto interessante, sì, perché a questo punto, visto che abbiamo imparato in questi anni come il prodotto di investimento e di risparmio possa essere collocato negli ambiti più differenziati, questo un pochino però ci preoccupa, Sant'Ambrogio. Come rassicurate il consumatore che avrà la consulenza adeguata? Ma guarda, è diverso, nel senso che noi abbiamo avuto delle persone competenti che sono stati i formatori delle assicurazioni, che stanno continuamente formando e hanno formato questi nostri dipendenti a conoscere innanzitutto in maniera tecnica in profondità il prodotto, a saper vendere questo prodotto, ma in questo è diverso rispetto alle altre situazioni che si sono corse nella distribuzione, in cui infatti ci volevo anche arrivare lì, dei punti o quant'altro al fine di andare nell'assicurazione. Ci sono per esempio dei centri commerciali che attraverso l'alimentazione delle proprie carte fidati possono garantire degli sconti su delle polizze con delle compagnie appunto che sono convenzionate. Abbiamo voluto prenderci carico. Perché questo innanzitutto? Cioè, qual è l'obiettivo? Noi vogliamo esatto. Cosa ci guadagna il supermercato Sant'Ambrogio? Mi faccia capire. Sì, per aumentare quello che abbiamo chiamato il trust commitment verso i nostri clienti, dovevamo entrare noi direttamente con un prodotto a marchio nostro, quindi passami il termine, per aumentare la brand equity dei clienti verso le nostre insegne dovevamo rischiare e vogliamo rischiare. Noi vogliamo fidelizzare sempre di più l'obiettivo i nostri è questo. Clienti nei punti vendita, e per far questo abbiamo detto: dateci tutta la competenza nel settore assicurativo, ci prendiamo carico formando e continuando a formare. Tu pensa le ore e i giorni di formazione che stiamo sottoponendo i nostri funzionari. Immagino. E saranno nel punto vendita a vendere l'assicurazione. Sant'Ambrogio, noi dobbiamo chiudere, però il consumatore cerca il risparmio. Questa è una fase economica molto delicata e non c'è tempo da perdere. Dobbiamo supportare le famiglie che corrono dietro ad un potere di acquisto che si erode sempre di più. Ci sarà anche un risparmio da questo punto di vista, certo, o comunque è solamente un modo per voi per fidelizzare la clientela? Ma certo che c'è un risparmio. Giocando sul concetto di economia di scala in acquisto, noi garantiremo un assoluto risparmio, perché poi noi porteremo a rollout questo servizio su centinaia e centinaia di punti vendita, ma non vogliamo neanche solo fermarci alle assicurazioni, noi vogliamo veramente il prossimo obiettivo? Cavalcare il concetto delle estreme liberalizzazioni, vogliamo essere più liberi nelle promozioni, vogliamo essere più liberi nei farmaci, nei carburanti, non solo sulle assicurazioni, vogliamo essere più liberi nelle aperture dei nostri punti di vendita. E infatti, Sant'Ambrogio, io mi devo fermare, stamattina le dovrò sparare per fermarla, comunque il grande entusiasmo lei ce l'ha trasmesso senz'altro, noi poi interessano i risultati, sicuramente quando partirete con tutti questi punti vendita, i point appunto delle assicurazioni, vi metteremo alla prova per capire come funzionano. Purtroppo però c'è anche un tentativo di fare marcia indietro in qualche ambito legato alle liberalizzazioni, e anche questo è un settore da esplorare. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. Alessandro. Registratore rassicurato comunque. Sant'Ambrogio è entusiasta, l'ho dovuto bloccare con un po' di violenza. Allora alle 12 smettila di infierire. No. Modello unico, torniamo alla dichiarazione dei redditi. Alle 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: c'è preoccupazione oggi a Torino per la manifestazione in occasione del G8 dell'università, previsto l'arrivo di alcune migliaia di studenti. Ieri già ci sono stati scontri tra il movimento dell'Onda e la polizia. Basta polemiche, il ministro dell'interno Maroni prova a placare gli animi sul tema immigrazione tra governo e ONU e vola in Libia per discutere oggi del pattugliamento congiunto del mare. Ieri l'alto commissariato per i rifugiati ha definito inaccettabili le accuse del ministro La Russa. Colpo alla camorra, la squadra mobile di Caserta ha catturato Franco Letizia, uno dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia, uomo di spicco dei casalesi. È stato catturato a San Cipriano d'Aversa e a Napoli sono in corso 100 arresti contro il clan Amato Pagano dei cosiddetti scissionisti. E infine il calcio: la Juventus ha esonerato Claudio Ranieri a 2 giornate dal termine del campionato, al suo posto Ciro Ferrara, che dice: anche se solo per 2 partite sono orgoglioso di essere qui. E allora alle 8:33 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Forse siete in macchina, sono passate le 7 e quindi potete essere un po' più tranquilli, perché che succede? Dalle 22 alle 7, quindi in fascia notturna, questa è una novità che, che è stata inserita nel disegno di legge, quello, il pacchetto sulla sicurezza, che ormai è in via di approvazione definitiva al Senato, manca un passaggio, dunque pare a fine maggio, e potrebbero dunque entrare a stretto giro di posta queste novità. La novità sul codice della strada, una delle novità su cui più si discute, è quella della aggravante temporale cosiddetta, cioè se uno compie un'infrazione al codice della strada dalle 22 alle 7, dunque di notte, per il fatto che l'abbia compiuta di notte, c'è un aggravante e quindi bisogna pagare di più come sanzione. I costituzionalisti insorgono, ma come, una discriminazione, non sta né in cielo né in terra. Insomma, cerchiamo di capirci qualcosa. Io voglio salutare l'onorevole Gianluca Pini della Lega Nord, che tra l'altro di questo tema si è occupato, anche sul tema dell'alcol. Onorevole Pini, buongiorno. Buongiorno a tutti, ascoltami. Ma com'è questa cosa dell'aggravante notturna? Cioè, ci può spiegare la ratio? So che il ministro dell'interno Maroni l'ha voluta, no? Fortemente. Cioè, che vuol dire? Se uno compie un'infrazione di notte, per ciò deve pagare di più? Ma guardi, il principio è quello di cercare di creare un deterrente per le fasce orarie dove si evidenziano di più i problemi legati all'abuso di alcol collegati alla guida. Mi meraviglia che i costituzionalisti, che alcuni costituzionalisti che comunque non sono legislatori, cioè sono persone che sono dei teorici più della legislazione. Qui ne abbiamo uno che l'ascolta adesso. Sì, certamente, cioè, con tutto il rispetto, però voglio dire, al di là di quello che è la teoria della norma in generale, qui siamo in presenza della necessità di creare un deterrente vero e proprio tra il collegamento che dicevo prima, cioè l'abuso di alcol e il fatto di mettersi alla guida. Quindi questo deterrente si può fare così, cioè inasprendo la pena per chi usa l'alcol di notte. Più è quello di cercare di creare un deterrente, non quello di, diciamo così, di far cassa sicuramente. Questo sì, no, il deterrente. Allora, Michele Ainis, buongiorno. Buongiorno. È un teorico, un costituzionalista, no? Insegna diritto pubblico all'Università Roma 3. Scrive anche sulla stampa. Ma è vero che lei è sobbalzato sulla seggiola, leggevo sul Corriere della Sera, quando ha letto di questa aggravante temporale? E se è vero, perché? Beh, lì per lì sembra una norma un po' bizzarra. Perché, no, mi rendo conto, c'è un problema che crea allarme sociale riguardo alle cosiddette stragi del sabato sera. E ciò su cui stiamo ragionando è sulla concreta efficacia di questo deterrente, perché intanto paradossalmente finisce per rendere perdonabile la medesima infrazione se commessa di giorno, perché tu sai che becchi un aggravante se bevi una bottiglia di whisky di notte, se invece la bevi di giorno sei trattato con maggiore tolleranza al nostro ordinamento giuridico. È quasi un incoraggiamento a bere whisky solo nelle ore diurne, quando nelle ore diurne, se io mi metto al volante, trovo delle strade più trafficate e potenzialmente posso... Beh, c'è sempre durezza nel trattare l'alcol al volante, anche di giorno. Il fatto che di notte è di più, effettivamente. Di notte è di più. Io mi chiedo poi quanto questo di più riesca ad essere incisivo, perché voglio dire, chiunque di noi sa che non deve mettersi al volante se è al ticcio. Ora, se ti dicono non un ergastolo, ma un ergastolo e mezzo, insomma, alla fine non so quanto. Io, guardi, credo questo, che il problema delle sanzioni amministrative o penali che il nostro ordinamento prevede, si risolve tutto nel fatto che la sanzione deve essere per un verso ragionevole, vale a dire, se mi castiga dei comportamenti che poi alla fine non sono così pericolosi, mentre noi oggi basta un bicchiere di vino per incorrere nei bastoni della legge, questo invece è ampiamente tollerato da tutti. E se per altro verso queste sanzioni cominciano a diventare un po' capricciose, perché voglio dire, se io faccio uno stupro, una rapina a mano armata di notte o di giorno, di domenico o di lunedì, e quello è sempre uno stupro, insomma, perché devo subire conseguenze diverse. E se per terza cosa, poi in realtà tutto questo non si accompagna ad un effettivo controllo del territorio, perché mi risulta che siano stati anche tagliate le risorse per la polizia stradale, perché sono tempi di vacche magre, tutto quello sì, che ci pare, sì. Allora non sono delle leggi, sono dei proclami, sono dei manifesti. E allora su questo, onorevole Pini, cioè tanto per fare un esempio, la guida in stato di ebbrezza per esempio è 6.000 euro di giorno come sanzione, c'è anche la sanzione penale, ma la sanzione amministrativa è 6.000 euro, se è di notte, leggevo sul Sole 24 Ore qualche giorno fa, è 9.000 euro, cioè, c'era tutta una tabella anche sabato, no? Sul Sole 24 Ore. Perché lei crede che questo possa essere un deterrente? Cioè semplicemente aumentare le sanzioni di un terzo o di metà, questo dovrebbe frenare le persone a bere? Oppure ci vogliono più controlli? Guardi che ieri ho sentito Giordano Biserni, il nostro amico degli Amici di Polizia Stradale, dire attenzione, non è così con le sanzioni, ma è mettendo più controlli e proclamando, avendo il coraggio per esempio di dire zero alcol, neanche una goccia al volante. Questo potrebbe essere la vera strada. Pini. Guardi, la soluzione, quella definitiva a questo problema non ci sarà mai, perché deve essere un insieme di norme che portano poi a creare una cultura del non bere nel momento in cui ci si mette la guida. Adesso su quello che riguarda il pacchetto sicurezza nel maxi emendamento, il ministro Maroni, ma più che altro gli uffici ai quali il comune amico Giordano Biserna, perché è della mia stessa città di Forlì, quindi ci conosciamo bene e abbiamo anche collaborato in materia di sicurezza stradale, lui si è rifatto in qualche modo, hanno dato questo tipo di soluzione che, ripeto, non è sicuramente definitiva, ma può creare un deterrente. È, poi, è una delle soluzioni. Norme, però... bisogna, guardi, sì, sì, sì, però... le dico, come tutte le norme bisogna vedere poi in fase di applicazione qual è l'effettiva efficacia a livello di deterrenza, come intendiamo. Sì, questo sì, c'è da dire che però, onorevole Pini, io leggevo anche il commento di Luigi Ferrarella proprio lo stesso giorno, dice insomma sembra un po' un'idea, la definiva la giustizia sudoku, no? La giustizia cruciverba, cioè ognuno mette un aggravante, qui non si capisce. Le chiedo però, mi risulta che a fronte diciamo di questo inasprimento e aggravamento temporale, di aggravante temporale, lei abbia presentato un emendamento sempre con di sicurezza che cambia la cosiddetta divieto di vendita agli alcolici dopo oltre le ore 2, cioè ampliando la possibilità di venderli fino, credo, a un'ora prima della chiusura dei locali, è così? No. Allora, ce lo spieghi. Io ho fatto un emendamento che allora l'emendamento è un recepimento di una intanto io sono il relatore della legge sì. comunitaria, quindi per obblighi comunitari, visto che noi apparteniamo all'Unione Europea, dobbiamo in qualche modo uniformare quelle che sono non solo le direttive e le sentenze della Corte di Giustizia Europea, ma anche le comunicazioni in merito alle varie strategie. Allora, vi è una strategia specifica da parte della Commissione Europea che è contenuta in una comunicazione del 2006 e che parla appunto della riduzione da danni per abuso di alcol. Noi principalmente quello che abbiamo fatto, anche questo in comune accordo con il Ministero delle Politiche sì. Giovanili, con il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti, è quello di evitare che vi sia un effetto distorsivo dell'applicazione della norma che era stata votata nella legge 160 del 2007, cioè quello che dava uno stop alle 2 di notte. Ecco, mi spieghi la modifica in sostanza? Che pubblici spettacoli. Quindi... adesso le spiego. Quello che si era evidenziato, cioè all'inizio la norma ha funzionato, poi cosa si è evidenziato? Che è iniziato un nomadismo fra i locali di pubblico spettacolo, che non sono solo le discoteche ma sono anche i pub dove c'è musica dal vivo, piuttosto che le sale di intrattenimento dove ci sono giochi d'abilità, e i locali, magari i barettini, gli street bar, dove con licenze fino alle 5 della mattina, tranquillamente uno poteva uscire dalla discoteca e andare di questo sì, onorevole Pini, però siccome abbiamo ancora due minuti mi lascia spiegare capito. Però no, purtroppo dobbiamo avere anche il dono della sintesi, mi dica che cosa prevede, sappiamo che ci sono stati molto discussa questa norma, mi dica in concreto invece di questo divieto alle 2 che cosa si prevede per lei? Allora, si prevede praticamente che per chi non ha una licenza vera e propria di somministrazione di bevande alcoliche, l'impossibilità dopo le 10 di sera e fino alle 7 della mattina, quindi andando nella stessa fascia oraria prevista dal Ministero dell'Interno per l'aggravante delle pene, di vendere alcolici se non all'interno delle proprie pertinenze, il che vuol dire che i cosiddetti ambulanti, e spesso e volentieri sono ambulanti non autorizzati, non possono, che si piazzano fuori, non possono più. E invece chi ha invece i locali che hanno gli alcolici cosa possono fare? Cioè, che hanno gli alcolici possono farlo fino a un'ora prima della chiusura, però lei tenga conto che questa norma non cambia. Qui volevo arrivare. Sì, però lei deve sapere, lei deve sapere che il 93% dei locali di intrattenimento chiude alle 3 di notte, quindi di fatto rimane alle 2. Non vogliamo dare un'indicazione singola delle 2 di notte su tutto il territorio nazionale, perché ci sono realtà dove magari i locali chiudono alle 2, altre realtà dove chiudono alle 4. Ma questo è che vero. Si vuole evitare che ci sia un nomadismo fra i locali di intrattenimento e chi invece non ha nessun vincolo a vendere. Allora, se si vuole, come diceva Biserna, se si vuole ridurre la possibilità di abuso di alcol, bisogna intervenire non solo sui controlli, e questo sono d'accordissimo, non si può scaricare solo sulla polizia stradale, ma bisogna intervenire a monte dando una stretta sulla possibilità di vendita degli alcolici. Comunque, se ci fosse un locale che chiude alle 5, potrebbe vendere con questa norma fino alle 4, fino a un'ora prima. Insomma, se c'è un locale che chiude alle 5, chi vende il alcolici può vendere fino alle 4, fino a un'ora prima. Questo potrebbe essere così. Potrebbe vendere fino alle 4, fatte salve disposizioni diverse date dall'amministrazione comunale. No, è questo però che può far discutere, sul quale discuteremo ancora, insomma, perché questo è un tema molto sentito dai nostri ascoltatori. Poi tutti siamo al volante, poi tutti pensiamo di avere la ricetta giusta, poi insomma invece la ricetta giusta purtroppo non c'è su questo tema. Io vi ringrazio, mi devo fermare, l'onorevole Gianluca Pini della Lega Nord e Michele Ainis, che è docente di diritto pubblico all'Università Roma 3. Vedremo se entro fine maggio entrerà in vigore questa aggravante temporale, cioè se commetti un'infrazione al codice della strada di notte hai una maggiorazione nella sanzione. Ma insomma, io qualche perplessità ce l'ho, insomma, comunque siamo qui per discuterne. Alle 8:49 minuti, allora, il giallo in salsa ligure. Io saluto l'onorevole Michele Scandroglio. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Noi ci eravamo sentiti per altri temi. Lei è anche il coordinatore del PDL in Liguria. È successo un pasticciaccio che il vostro incaricato di raccogliere firme per la provincia di Savona, Angelo Barbero, che doveva raccoglierle pare ad Albenga, perché lì risiede, e pare non le abbia raccolte tutte lì ad Albenga, ma ci sono consigli di Stato adesso in ballo, TAR, insomma, di fatto vi hanno escluso dalla corsa per la provincia di Savona al momento, allo Stato. Voi avete fatto una conferenza stampa, lei avete denunciato che cosa? Una complotto, una congiura? Ma guardi, i fatti che sono stati esposti al Ministro degli Interni non sono frutto di fantasia, quindi se noi parliamo di un filo rosso che collega tante azioni, lo diciamo a ragion veduta. Se avrà piacere le manderemo il testo della nostra interpellanza. Sì, filo rosso in che senso? Cioè, non ce l'avrà mica con le procure di sinistra, no? Guardi, Libero oggi dice, casualmente, viene fatto notare che il procuratore capo di Savona, che è padre di tale signorina, giornalista del secolo XIX, e di Gianluigi, che è l'altro figlio, dirigente della Lega Coop regionale. E chi c'entra? Sospetto, però certo non c'è niente di male, però guarda caso che il giornalista che ha in possesso dei dati che a noi non danno è giornalista di quel giornale. Accidente. Adesso dovrei avere qui il secolo XIX. Cioè, lei parla di un complotto ordito tra il procuratore capo di Savona e il secolo XIX. Io dico solo che ci sono dei fatti, ci sono dei film. Questo qui, per esempio, stato evidenziato dal giornale Libero di stamattina, che ho provveduto anche a leggere la conferenza stampa di ieri, quindi sono un po' informato su cosa hanno afficato i colleghi, insomma, ci si conferma un ulteriore elemento. La nostra lista di appoggio della Nuova Democrazia Cristiana è stata, come dire, ritenuta inammissibile per il fatto che il simbolo era quasi uguale a quello dell'UDC, mentre è evidente che siccome sono due simboli ammessi entrambi ad essere presentati, si poteva e si doveva chiedere a entrambi di modificarli, non a uno solo, sì, guarda caso il nostro, così come un'altra lista con lo scudo crociato che appoggiava il sindaco presidente della provincia del PD è stata lasciata così com'era senza neanche dirgli niente. Vabbè, lei insomma cioè, parla di... Però se lei mi domanda perché il filo rosso, io le voglio spiegare, se invece lei vuole solo fare qualche battuta. No, parole, no, ma sa... Il primo partito della provincia, quella lì... Il tempo è tiranno, il tempo è tiranno, non lo Scandrolo. Ma se faccio domanda capziosa, mi dica quello che io le devo dire. No, vale. No, capziose... D'accordo, dove è in discussione la democrazia e la possibilità di votare per il partito di maggioranza relativa... Sì. E sicuramente il primo partito della provincia di Savona per un quisquiglia. No, no, guardi, domande capziose. Comunque stia tranquillo, domande capziose io non ne faccio. Faccio solo delle domande capziose. No. Onorevole Scandroglio, le chiedo però l'ipotesi che ci sia stato un errore ad raccogliere le firme, questa non l'avete neanche messa in... Perché voglio dire, un giornalista potrebbe averlo scoperto. È una certezza. Ah, è una certezza. È stato però fatto un errore. È una certezza. Però vede, da quando io presento le liste, avendo 55 anni, ne ho presentate da almeno 30, succede sempre che si va a depositare le liste, c'è un dialogo con le cancellerie, con il tribunale, ci si segnala le anomalie, se c'è una cosa che va messa a posto viene messa a posto, perché vede, la volontà del legislatore quando ha dato queste norme è esattamente quella di rispettare la volontà degli elettori cittadini votanti. Non è un atto di procedura civile o di procedura penale le cui rigorose forme servono a salvaguardare il presunto colpevole. Qui siamo di fronte ad una manifestazione di volontà popolare, sì, che va salvaguardata ad ogni costo. L'azione della magistratura, dell'ufficio collegio provinciale elettorale deve essere tesa esclusivamente a consentire che la volontà del cittadino elettore sia espressa, e non è un aggravante che il fatto che abbiano escluso il partito più grande sia maggiormente grave. Sarebbe stato grave anche se avessero escluso il partito più piccolo. Quello che stupisce è che se avessero escluso il partito più piccolo e magari, come dire, il più radicale di un tempo, sarebbe successo lo scandalo, mentre invece se escludono il PDL... Ma mi risulta che sono stati esclusi anche, per esempio, leggevo, credo, il Partito Comunista dei Lavoratori. Certo, ma questo è il partito di Ferrando, sì, il Partito Comunista di Ferrando, che guarda caso è oppositore tanto quanto noi della stessa ex maggioranza, che secondo me non c'è più, PC, PD, PDS, accidenti, ma lei... al PD... Ma lei, onorevole, però, onorevole, lei mi ha detto, guarda caso, il procuratore padre della giornalista, cioè, certo, un complottone, voglio dire, però mi ha anche detto che un errore è stato... Non è un complottone. E beh, insomma, guarda caso. Un filo rosso che lega tutti fatti, un filo rosso inquietante che lega tutti questi fatti, e che guarda caso sono lì da vedere. Guarda caso tutti vertono nell'indebolirci quando ci danno vincenti la gente, i sondaggi, le elezioni politiche della volta scorsa, per la prima volta si viene a incrinare un asse di governo della regione Liguria, che fa tra Savona e Genova il perno di tutto questo problema. Vabbè, onorevole Scandroglio, noi vedremo come va il Consiglio di Stato. Voi avete fatto un ricorso ovviamente per cercare di essere riammessi, no? Qui mi devo fermare, per il momento la ringrazio, vedremo. Insomma, certo, lei ha disegnato qualcosa, filo rosso, il procuratore capo di Savona, la cui figlia sta nel secolo XIX, che è il giornale che ha fatto scoppiare questa cosa. Insomma, sono anche accuse interessanti. Insomma, quelle che fa, lei ieri ha fatto una conferenza stampa e le ribadisce qui. Staremo a vedere se il giallo in salsa ligure o in salsa savonese si risolverà in quale modo. Ecco. Grazie Michele Scandroglio, onorevole PDL, coordinatore della Liguria. Vi devo fermarmi qui. Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Tra poco c'è Giuliano Ferrara con Parliamo con l'Elefante. Noi ci ritroviamo domani. Domani ci sarà un collega, Alessio Maurizi, a condurre per domani. E noi ci sentiamo giovedì, ma invece il programma 24 Mattino è domani regolarmente in onda. A domani.